Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'ultima parte dell'epistola, della prima epistola di Paolo a Timoteo, leggiamo quanto segue. Leggerò dal capitolo 6 i versetti che vanno dal 3 al 21. Così è scritto: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, d'uomini corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ora la pietà, con animo contento del proprio stato, è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, io ti ingiungo ad osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale siano onore e potenza eterna. Amen. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero, che non ripongano la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa, perché ne godiamo, che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a far parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, a fin di conseguire la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, schivando le profane vacuità di parole, le opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza, della quale alcuni facendo professione si sono sviati dalla fede. La grazia sia con voi. Questa mia predicazione verte su coloro che si sono sviati dalla fede. A motivo, diciamo, dell'amore del denaro, e poi a motivo di quella che falsamente si chiama conoscenza, perché qui il greco nel capitolo 20 del capitolo 6, il greco significa conoscenza. Infatti molte Bibbie hanno tradotto la parola con conoscenza. Allora, cominciamo da quelli che si sono sviati dalla fede perché si sono dati all'amore del denaro. Allora, intanto bisogna partire da questo presupposto, che coloro che si sono sviati dalla fede erano nella fede. Uno non si può sviare dalla fede se non è nella fede, cioè uno non può uscire fuori di strada se non è nella strada. Dico questo perché sapete che ci sono molti che sostengono che la salvezza non si possa perdere. Ora, la Sacra Scrittura invece afferma che la salvezza si può perdere e naturalmente la perdono tutti coloro che apostatano dalla fede, che si traggono indietro. Ma per apostatare dalla fede bisogna essere nella fede. E quindi per sviarsi dalla fede un uomo deve essere nella fede. Allora, tutti coloro appunto di cui qui l'Apostolo Paolo parla, sia di quelli che si sono sviati dalla fede a motivo dell'amore e del denaro, che di quelli che si sono sviati dalla fede facendo professione, professando quella che falsamente si chiama conoscenza, erano nella fede, si sono sviati, cioè qualcosa che è già avvenuto. Ora qualcuno potrebbe dire: ma come fai a parlare in questi termini così perentori, così categorici? Perché quello che diciamo è avvenuto nel passato, qui naturalmente stiamo parlando di persone che si sono sviate dalla fede nel primo secolo dopo Cristo. Ora, quello che dice la Sacra Scrittura avvenne nel primo secolo dopo Cristo avviene anche oggi. Non è che è qualcosa che non avviene più, no, è qualcosa che avviene anche oggi, perché Dio riconduce ciò che è passato, per cui possiamo dire che ciò che è già stato prima. Quindi ancora oggi ci sono coloro che si sono sviati dalla fede perché si sono dati all'amore del denaro, ci sono coloro che si sono sviati dalla fede perché hanno cominciato a fare professione di quella che falsamente si chiama conoscenza. Allora, partiamo dunque da coloro che si sono sviati dalla fede perché si sono dati all'amore del denaro. Ora, il denaro non va amato. Badate, la Scrittura non dice che non va usato, ma il denaro non va amato. Infatti c'è un preciso comandamento nell'Epistola agli Ebrei, c'è un comandamento che riguarda proprio questo argomento. Non siate amanti del denaro, lo dice lo scrittore agli Ebrei. Al capitolo 13, versetto 5, leggiamo: non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, talché possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò, che mi potrà fare l'uomo? Dunque è espressamente vietato amare il denaro. Quindi il denaro si può usare, infatti ricordiamo quello che dice l'Apostolo Paolo, bisogna pure dire questo, perché sapete che ci sono quelli che sostengono che il denaro è radice di ogni sorta di male. Pensate cosa riescono a dire, ma non è il denaro che è radice di ogni sorta di male, è l'amore del denaro. Allora, vi stavo dicendo che l'Apostolo Paolo, che volevo leggere qualcosa che ha scritto l'Apostolo Paolo, in merito appunto al comprare. Allora, per confermare appunto che è lecito usare il denaro. Ma questo io dichiaro, capitolo 7, dal versetto 29 di Primo Corinzi: ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Quindi notate che qui la Scrittura parla di quelli che comprano. Allora, si compra con il denaro, e quelli che comprano devono comprare come se devono essere come se non possedessero. Quindi non si devono fare dominare da quello che comprano. Allora, che cosa dunque avviene in coloro che si mettono ad amare il denaro, amare i soldi? Si sviano dalla fede. e si trafiggono di molti dolori. Ora, notate che non c'è scritto che solamente che si sono sviati dalla fede, ma anche che si sono trafitti di molti dolori, in sostanza si sono riempiti di guai. Anche perché ci sono, tra quelli che vogliono arricchire, ci sono quelli naturalmente che contraggono debiti. Debiti sopra debiti. Sapete che ci sono persone che apparentemente sono ricche perché hanno molti beni materiali, ma hanno una quantità di debiti impressionante. Praticamente si sono arricchiti facendo debiti. Quindi diventando schiavi delle banche. Chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Questo dice la Sacra Scrittura, questo noi lo crediamo fermamente, diciamo che ne dicano, diciamo, i bugiardi che sostengono che appunto prendendo in prestito soldi dalle banche non si diventa schiavi di nessuno. Evidentemente sono così accecati dalle tenebre costoro che non riescono proprio a discernere la destra dalla sinistra. Comunque, allora la scrittura dice che si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori, cioè molti guai, sono pieni di guai. Coloro che si sono sviati dalla fede a motivo dell'amore del denaro sono pieni di guai. E guardate che questi loro guai si vedono, non è che sono invisibili, si vedono. D'altronde, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Che quelli che vogliono arricchire, attenzione, qui c'è la volontà di arricchire, la volontà di arricchire. Allora, dice così, cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Ora, tutti noi siamo tentati. Chi è il tentatore? È il diavolo. Che cosa siamo tentati a fare, tra le altre cose? Ad amare il denaro. Allora, bisogna resistere al tentatore rimanendo fermi nella fede, sapendo che appunto il Dio è colui che ci ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci, di non farci mancare nulla, e quindi noi rifiutiamo, rimanendo fermi nella fede, rifiutiamo di amare il denaro, come suggerisce di fare il principe di questo mondo, che è appunto il diavolo. Allora notate che quelli che vogliono arricchire, perché appunto si sono dati all'amore del denaro, guardate che cosa gli accade, cadono in tentazione, in laccio, quindi cadono nel laccio del diavolo, e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Notate che cosa c'è scritto. Praticamente questi uomini rimangono distrutti e poi vanno in perdizione. Vanno in perdizione perché? Perché coloro che amano il denaro sono degli idolatri. Sono gli avari che non erediteranno il regno di Dio. Allora, è di fondamentale importanza su questo argomento ricordarci sempre che siamo usciti dal seno di nostra madre nudi. Non abbiamo portato nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla. Ma vedete, il nostro Dio ci sopinistra copiosamente ogni cosa affinché ne godiamo. Ora il Signore non ci fa mancare nulla. Ci fa anche stare nell'abbondanza, quando è nella sua volontà, come anche nella penuria, quando è nella sua volontà che siamo nella penuria. D'altronde non dico nulla di assolutamente strano, perché voi sapete che l'Apostolo Paolo non fu solo nella penuria, ma fu anche nell'abbondanza. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Io, dice, Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Io so essere abbassato e so anche abbondare in tutto e per tutto. Sono stato ammaestrato ad essere saziato, ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi il Signore, nella sua grande fedeltà, fa sì anche che noi siamo nell'abbondanza, e per questo naturalmente lo ringraziamo. Ma è l'abbondanza che viene da Lui, è l'abbondanza che Lui ci concede in accordo con la sua volontà, perché Egli fa tutto ciò che vuole. D'altronde Dio è colui che fa impoverire e fa arricchire. Badate bene, qui quando la scrittura dice che Dio fa arricchire, non è che si può accusare coloro che Dio fa arricchire di avere voluto arricchire, no? Attenzione, perché altrimenti dovremmo accusare Salomone di avere voluto arricchirsi, perché aveva tutte quelle ricchezze, ma quelle ricchezze gli furono date da Dio, Sì, Dio decise di dare a Salomone tutte quelle ricchezze, e Salomone diventò un uomo molto ricco. Ma non perché volle arricchire, ma perché Dio volle farlo diventare ricco, perché nel piano di Dio c'è anche questo: voler fare diventare ricchi taluni, come anche far diventare poveri taluni. Dipende sempre dalla volontà di Dio, che non è uguale per tutti. Comunque una cosa è certa: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Cioè, i santi non mancano d'alcun bene, coloro che temono il Dio non mancano d'alcun bene. Questo deve essere ben chiaro, perché il Dio è fedele. Sono stato giovane, sono diventato, vi ricordate quel versetto, diciamo, nei Salmi, bellissimo, bellissimo versetto, che ci fa capire veramente quanto è fedele il Signore. Perché il Signore veramente, io ho visto questo, l'ho visto con i miei occhi, non fa veramente mancare assolutamente niente al giusto. Non ho visto il giusto abbandonato, né la sua progenie accattare il pane. Ma ci rendiamo conto, fratelli nel Signore? Il nostro Dio è fedele. Il Signore ha promesso di supplire ad ogni nostro bisogno. Ricordiamocelo sempre questo, fratelli, perché alcuni facilmente dimenticano le promesse del Signore. Quindi, se Davide ha detto che era stato giovane, era diventato vecchio, ma non aveva visto il giusto abbandonato nella sua progenie a cattare il pane, vuol dire veramente che il Signore non ci lascia, non ci abbandona. Come abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei, dice: Egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò, che mi potrà fare l'uomo. Quindi noi siamo contenti delle cose che abbiamo, poco o tanto che abbiamo. Adesso abbiamo imparato ad essere contenti nello stato in cui ci troviamo, ma appunto proprio per questo non vogliamo diventare ricchi. Ma perché? Perché non amiamo il denaro. Allora vedete, fratelli nel Signore, dobbiamo appunto ricordarci che non possiamo portare via nulla. Quindi, chiaramente, dobbiamo essere contenti dello stato in cui noi ci troviamo per volontà di Dio, che naturalmente è uno stato che può variare da credente a credente. Ma una cosa è certa: non importa quale sia lo stato, il Dio è con tutti i suoi figlioli, non li lascia e non li abbandona, e supplisce ad ogni loro bisogno con gloria, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Quindi la nostra fiducia è nel Signore, e quand'anche i nostri beni abbondassero, il nostro cuore non riporrà la fiducia nei beni, appunto, che il Signore ci provvede, perché la nostra fede è in Dio, il creatore di tutte le cose. Dunque, bisogna quindi esercitare la pietà con animo contento del proprio stato, cioè un gran guadagno, perché ci sono coloro che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Sì, proprio così, e ce ne sono molti oggi nelle chiese, ce ne sono molti oggi nelle chiese che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Stanno sempre a chiedere soldi, a parlare di decima, a imporre la decima con relativa maledizione contro chi non la dà, o a maledire coloro che appunto non danno tanti soldi alla loro organizzazione, perché ormai bisogna parlare di organizzazione, capito? Non ministero. Quale ministero? Questi sono impostori, che servono il loro ventre, il loro Dio è il loro ventre, ed è manifesto, lo ribadisco sempre, come manifesto, come si può vedere chiaramente, come si possono vedere chiaramente, quelli che servono il Dio, così si possono vedere chiaramente, anche quelli che servono Mammona, capite? Dunque, vedete qua, si parla di coloro che stimano la pietà e secondo i guadagni, che appunto sono coloro che vogliono arricchire, sono quelli che vogliono arricchire. Notate che la scrittura li definisce uomini corrotti di mente e privati della verità, notate, hanno una mente corrotta, infatti è una mente diabolica, satanica. I loro pensieri sono volti al male, a fare il male. Infatti, sono bugiardi, calunniatori, doppi, sono persone viscide, perfide, ripiene di ogni frode, di ogni ingiustizia, sono corrotti di mente, non hanno una mente sana, non hanno la mente di Cristo, ma hanno una mente corrotta, costoro, che amano il denaro e sono privati della verità, infatti non hanno la verità. Non hanno la verità, loro fingono di avere la verità, ma non hanno la verità. Infatti dice che sono privati della verità. E costoro, naturalmente, insegnano una dottrina diversa da quella che insegnavano gli apostoli. Non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà. Sono persone gonfie, non sanno nulla. E guardate cosa c'è scritto. Langue intorno a questioni, a dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni. Ne avete conosciuti di queste persone? Ne avete conosciute di queste persone litigiose, contenziose, rissose, che non vedono l'ora di litigare, per litigare con le persone? Io mi sono accorto che nel corso degli anni ci sono stati di quelli che si sono uniti a noi con finti sembianti, semplicemente perché erano contenziosi, litigiosi, rissosi. Allora imparavano da sottoscritto, diciamo, come confutare le false dottrine, ma non per amore della verità, ma per litigare con le persone. E infatti si sono fatti conoscere perché andavano attorno in giro per i gruppi di Facebook a accendere discussioni, liti di ogni genere. Eh sì, avviene anche questo. Quindi hanno usato la conoscenza che io gli ho trasmesso gratuitamente per litigare con tutti. E hanno fatto credere che il sottoscritto era contenzioso e litigioso come loro, quando non è così. E chi mi conosce lo sa bene e ne rende testimonianza. Però avviene anche questo. Queste persone sono persone appunto invidiose, invidiose, poi sospettose, sospettano sempre il male, maldicenti, e creano acerbe discussioni. Sono esattamente così, come la Sacra Scrittura li definisce. Vi ho sempre detto che io credo fermamente in quello che dice la Sacra Scrittura, ed è così, e ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie, appunto queste persone parlare, queste persone agire, e vi posso assicurare che sono esattamente come li descrive l'Apostolo Paolo. C'erano allora, considerate, c'erano già allora ai giorni degli Apostoli, nel primo secolo dopo Cristo, mentre gli Apostoli erano ancora in vita, c'erano costoro che insegnavano una dottrina diversa. E sì, proprio così, costoro insegnano una dottrina diversa. Diversa, quindi, da quella di Dio, perché la dottrina degli apostoli è la dottrina di Dio. E dunque, costoro che sono, diciamo, sulla via della perdizione, mentre un giorno erano sulla via della salvezza, ma poi si sono sviati dalla fede, perché si sono dati all'amore del denaro, si sono messi ad amare il denaro, e il loro amore per il denaro è manifesto. È manifesto, ve lo posso assicurare. Talvolta, sapete, quando si parla di coloro che si sono dati all'amore del denaro, rischiamo di concentrarci esclusivamente su quei predicatori che a un certo punto si sono messi ad amare il denaro. Ma guardate che ci sono anche tanti membri di chiesa che non hanno alcun ministero, che si sono dati all'amore del denaro. E anche loro si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Appunto, l'amore del denaro che è in costoro si vede e si sente. Si sente. Sapete, l'amore del denaro è come un odore sgradevole. Infatti voi sapete che quando parlano gli avari, suscitano molta irritazione, molto, molto sdegno. Gli avari, sì, quelli che amano il denaro, quando parlano, fanno orrore, perché manifestano il loro amore verso il denaro. E ce ne sono non solamente tra predicatori, ma ce ne sono anche tra i membri. Poi c'è un'altra cosa. State attenti che gli avari non si trovano solamente tra coloro che sono ricchi. Questo cosa significa? Che non tutti i ricchi sono avari. Eh già, bisogna dire anche questo, che molti non vogliono sentirne parlare, ma non tutti i ricchi sono avari. Infatti, vedete, a quelli che sono ricchi in questo mondo bisogna ordinare che cosa? Che non siano d'animo altero, che non ripongono la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra completamente ogni cosa perché ne godiamo, che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a far parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, a fin di conseguire la vera vita. Quindi, evidentemente ci sono credenti ricchi, perché Dio ha voluto arricchirli, benedicendo l'opera delle loro mani, la loro attività, che praticamente erediteranno il regno di Dio, non essendo assolutamente avari. Allora, vi stavo dicendo, non bisogna pensare che gli avari siano solo tra i ricchi, perché ci sono anche tanti avari tra i poveri, sì, tra i poveri, quindi non illudetevi, gli avari, non importa se sono ricchi o poveri, non erediteranno il regno di Dio. Il comandamento non siate amanti del denaro è rivolto sia ai ricchi che ai poveri, Talvolta sapete, dei poveri sì, alcuni si creano un'immagine sbagliata. Sapete che ci sono quelli che pensano che in cielo ci vanno i poveri, no? Ma non ci vanno i ricchi. Non è assolutamente così. In cielo ci vanno tutti coloro che muoiono in Cristo, siano che siano ricchi, siano che siano poveri. Sì. È proprio questo il punto. Non perché uno è povero va in cielo, e non perché uno è ricco non va in cielo. Ricordatevi che Giuseppe d'Arimatea, quell'uomo che andò da Ponzio Pilato a chiedere il corpo di Gesù, e che poi trattolo giù preso il corpo di Gesù perché Pilato glielo concesse. lo mise in una tomba nuova che lui aveva fatto scavare la roccia. Ricordatevi che quell'uomo era un uomo ricco. Sì, Giuseppe d'Arimatea era un discepolo del Signore, occulto per timore dei giudei. Però vedete che nell'ora, in quell'ora particolare si manifestò. Si manifestò appunto per quello che era, un discepolo del Signore. Infatti fece un'opera buona. E allora, quindi bisogna stare attenti a non amare il denaro. Usate il denaro, fratelli del Signore, usatelo naturalmente con giustizia, usatelo saggiamente, ma usatelo. Fatene un uso saggio, e chiedete a Dio appunto saggezza anche per amministrare il denaro che il Dio vi provvede, perché dovete sapere che il denaro che avete ve l'ha provveduto il Signore, è Dio che ve l'ha provveduto, quindi è un bene che viene da Lui, quindi usate quello che Dio vi ha provveduto con saggezza, con saggezza. Quindi per i vostri bisogni e anche per supplire ai bisogni di coloro che si trovano nel bisogno, per aiutarli, perché questo ci è comandato. Ora, quindi, dato che l'amore del denaro è, diciamo, una minaccia, è un pericolo, bisogna naturalmente fuggirlo, perché Paolo dice a Timoteo, uomo di Dio, fuggi queste cose. Quindi bisogna, diciamo, fuggire l'amore del denaro. Non amate il denaro, fratelli, guardate, quelli che si sono messi ad amare il denaro si sono sviati dalla fede. Si sono sviati dalla fede, sono pieni di guai, ma pieni di guai. Ma allora quindi, vedete, fuggi queste cose, quindi non siate amanti del denaro. Guardate, ogni comandamento che è scritto, noi non lo dobbiamo sottovalutare. Non lo dobbiamo sottovalutare. Ricordiamoci sempre che il peccato è la violazione della legge. E ricordiamoci sempre che il salario del peccato è la morte. Voi cosa pensate? Che se uno si mette ad amare il denaro, vivrà? No, il salario del peccato è la morte. Se uno si mette ad amare il denaro, comincia praticamente a vivere secondo la carne. E quindi, per certo, morirà. Per certo. Infatti, coloro che si sono dati all'amore del denaro sono morti spiritualmente. E adesso si ritrovano sulla via della perdizione. Sulla via della perdizione. Un giorno erano sulla via della salvezza, ma adesso sono sulla via della perdizione. Dunque, vedete cosa dice la scrittura? Fuggi queste cose. Ora passiamo a coloro invece che si sono sviati dalla fede facendo professione appunto di quelle che si chiama falsamente conoscenza. Allora, già nel primo secolo dopo Cristo, mentre gli apostoli erano in vita, c'erano coloro che vantavano di avere raggiunto una conoscenza particolare, o comunque di aver ottenuto una conoscenza particolare. No? Ora, la parola usata in greco per conoscenza è gnosis, quindi stiamo parlando della gnosi. Quando sentite il termine gnosi, ricordatevi che per gnosi si intende la conoscenza. Ma attenzione, quale conoscenza? Ed è bene quindi, diciamo, che voi sappiate di quale conoscenza qui la scrittura parli, perché qui dice della quale alcuni facendo professione si sono sviati dalla fede. Ora, se questa che viene chiamata falsamente conoscenza porta il credente a sviarsi dalla fede, è evidente che è bene sapere questa conoscenza, questa falsa conoscenza, appunto, in che cosa consiste. Ora, la gnosi, consiste nella conoscenza di se stessi, il che equivale alla conoscenza di Dio. Qualcuno dirà, com'è possibile? Stai dicendo quindi che secondo costoro che appunto fanno professione di questa conoscenza, chi conosce se stesso conosce Dio? Sì, esattamente così. Infatti il loro motto, o meglio il loro comandamento principale è questo: conosci te stesso. È di fondamentale importanza per costoro conoscere se stessi. Perché? Perché conoscendo se stessi, loro dicono, si conosce Dio. Perché? Perché l'uomo è Dio, dicono. O meglio, è una, l'uomo ha una particella di Dio, o una scintilla di Dio all'interno del, diciamo, del suo corpo, di questo involucro. Ora, questa scintilla di Dio procede da Dio, loro dicono, no? Dal Padre. Loro lo chiamano padre, ma badate bene, quando gli gnostici, che sono appunto i possessori, no, di questa cosiddetta conoscenza, di questa gnosi, parlano di Dio, ricordatevi sempre, non si riferiscono all'Iddio di Israele, perché loro detestano, odiano, lottano contro l'Iddio di Israele, contro Yahweh. Loro lo reputano un Dio malvagio, cattivo. Sì, sì, coloro che possiedono quella che falsamente si chiama conoscenza odiano l'Iddio, loro lo chiamano l'Iddio dell'Antico Testamento, proprio non lo sopportano, lo odiano e prendono piacere nel trasgredire i suoi comandamenti. Perché? Perché lo odiano, nel loro odio, infatti, loro diciamo sono volti alla violazione dei comandamenti di Dio. Per esempio, loro dicono c'è scritto non commettere adulterio, e io invece commetto adulterio, dice lo gnostico, c'è scritto non rubare, e io invece rubo, c'è scritto per esempio non usare il nome di Dio in vano, e io lo uso in vano. Insomma, gli gnostici sono portatori di una filosofia di vita diabolica al massimo, capite? Stiamo parlando veramente di figli del diavolo, di anticristi, ricordatelo. Allora, loro praticamente dicono che l'uomo è ha una particella di Dio, una scintilla di Dio dentro il corpo, che è scesa da Dio, che vi ricordo loro chiamano padre, chiamano il tutto, l'uno, ma non è l'Iddio di Israele, l'Iddio dei Giudei, l'Iddio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è un altro Dio, un Dio superiore a Yahweh, capite? Capite quando gli gnostici parlano di Dio a chi si riferiscono? A un essere supremo, superiore a Yahweh, cioè già questo vi fa capire che razza di gente è questa, eh? Quando quindi sentite parlare di credo gnostico, pensiero gnostico, ecco, tenete ben presente questi concetti. Allora, questa scintilla di Dio, questa particella di Dio, loro dicono che è scesa dal cielo, quindi preesisteva, preesisteva naturalmente alla nascita dell'uomo, e si è andata a incarnare nell'uomo. Allora, l'uomo però, non sa di essere Dio, non sa di essere parte di Dio, capite? Di essere proceduto da Dio. Cioè non conosce, secondo appunto gli gnostici, non conosce la sua vera natura, che è una natura divina, è di origine divina, loro dicono. Sei di origine divina, hai una natura divina, ma non lo sai, sei nell'ignoranza. Allora, l'ignoranza, quindi, di cui parlano costoro, praticamente è la non conoscenza di essere Dio. Guardate, loro usano le stesse parole che usiamo noi cristiani, ma gli danno un significato completamente diverso. Allora loro dicono che l'uomo ha bisogno di essere redento, salvato, ma la salvezza degli gnostici non ha niente a che fare con la salvezza di chi parla la scrittura, perché è una liberazione dall'ignoranza. Cosa significa? Loro ti dicono, ma tu sai, devi uscire dall'ignoranza, hai bisogno di un'illuminazione. Perché? Hai bisogno appunto di questa illuminazione che fa pervenire appunto alla conoscenza, della propria divinità. Quindi quando loro parlano di salvezza, parlano di una liberazione dall'ignoranza, un'illuminazione, va bene? Che poi è portatrice di questa conoscenza particolare, addirittura loro dicono che Gesù avrebbe trasmesso ad alcuni suoi pochi eletti, capite? Infatti per loro Gesù era un maestro gnostico che insegnava la gnosi, praticamente insegnava ai discepoli sostanzialmente questo: conoscete voi stessi per conoscere Dio. Proprio, voi direte, com'è possibile? Sì, è proprio così. Infatti nei cosiddetti Vangeli gnostici, che sono dei libri apocrifi, che giustamente i primi cristiani rigettarono, ci sono queste diavolerie, sono chiamati Vangeli gnostici o testi gnostici e così via. Allora, che cosa succede? Succede che nel momento in cui l'uomo, perviene alla conoscenza della propria origine divina, della propria divinità, ecco che in quel momento esce dall'ignoranza. Ecco, viene salvato, capite? Quindi, lui perviene alla conoscenza di essere Dio, o meglio, parte di Dio, ma parte di quale Dio? Di quell'essere supremo, superiore a Yahweh, capite? Che chi è? Dietro quell'essere supremo, superiore a Yahweh, che viene presentato come superiore a Yahweh, come il tutto, l'uno e così via, si nasconde il seduttore di tutto il mondo, cioè il diavolo, Satana. Quindi, e loro, è una cosa tremenda, gli gnostici pensano che questo loro essere supremo, che loro chiamano Dio, sia buono. Guardate il diavolo come è riuscito a sedurre costoro. Guardate il diavolo come è riuscito a sedurre costoro. Proprio vero, sedusse Eva con la sua astuzia. E ancora oggi seduce le persone con la sua astuzia. Allora, quindi nel momento in cui, mediante questa conoscenza, appunto, lo gnostico, no? Il possessore della gnosi, no? Arriva appunto praticamente all'obiettivo sostanzialmente, che è quello di pervenire a sapere che è Dio, allora può fare quello che vuole. Può fare quello che vuole! Perché tanto lui ormai è pervenuto alla conoscenza del sé, alla conoscenza della propria divinità. Quindi si può comportare come vuole, può infrangere tutti i comandamenti di Yahweh, non gli succede niente, non gli succede niente. Una volta salvato, sempre salvato. Sì, perché molti non sanno che l'eresia, una volta salvati, è sempre salvati, è di origine gnostica. Infatti erano gli gnostici, possessori di quella che falsamente si chiama conoscenza, che dicevano sostanzialmente che loro si potevano macchiare delle peggiori lordure, tanto rimanevano sempre quello che erano. Persone che possedevano la conoscenza. Infatti erano date, questi gnostici, no? Che si vantavano di possedere questa conoscenza, erano dati a ogni sorta di scelleratezza, di cose turpi, cose malvagie, capito? Loro praticamente si sentivano al riparo, una volta pervenuti a questa conoscenza. Infatti prendevano piacere a violare i comandamenti di Dio, ritenendo che loro non potevano perdere la salvezza. Ricordatevi però che cosa intendono gli gnostici per salvezza: la liberazione dall'ignoranza, cioè la liberazione dal non sapere di essere Dio. Avete capito quindi? Quindi l'agnostico si sente Dio. Naturalmente parte di Dio, ma parte di un Dio superiore a Yahweh. Cioè, fratelli e signori, lo so, sono cose complesse, però sono cose reali, sono cose reali queste qua, sono cose reali di cui bisogna prendere atto, perché nelle chiese ci sono costoro che fanno professione, appunto, di quella che falsamente si chiama conoscenza. E si nascondono, sono travestiti da cristiani, usano le nostre parole, la nostra stessa terminologia biblica. Usano certi versetti biblici, ma gli danno un significato completamente diverso. Completamente diverso, infatti vanno messi alla prova, annunziando l'Evangelo di Cristo, la buona novella che è Gesù il Cristo, perché loro negano che Gesù è il Cristo. Allora, loro naturalmente, i gnostici, che cosa quindi aspettano? Aspettano praticamente che la scintilla divina che loro pensano di avere dentro di loro si ricongiunga con il tutto, con l'essere supremo, insomma, che ritorni da dove è proceduta. E da dove è proceduta questa cosiddetta scintilla divina che loro dicono di avere? È proceduta dal cielo, è discesa dal cielo, no? Loro dicono dal Padre, e quindi tornano alla casa del Padre quando muoiono, secondo loro, invece vanno all'inferno. Allora tornano, dicono che loro, quando muoiono, voi sentite dire che sono tornati alla casa del Padre, certo, perché loro sostengono di essere proceduti dalla casa del Padre, sono scesi dal cielo, no? La loro scintilla divina, scintilla di Dio, è scesa, si è andata a incarnare nell'uomo. Allora, quando sentite dire, tornate alla casa del Padre, quello è un parlare agnostico, perché praticamente sottintende che colui che è morto, che magari non era un agnostico, intendiamoci che oggi c'è l'ignoranza, però purtroppo questo è un linguaggio agnostico, questo è un principio agnostico. Loro sottintendono appunto che le cose stanno così, che colui che è morto praticamente aveva una scintilla di Dio, una particella di Dio nel suo corpo, che è tornata da dove era discesa. Questo è grave perché si diffonde in questa maniera proprio l'eresia gnostica, quella che falsamente si chiama conoscenza, cioè la gnosi. Sì, fratelli nel Signore, coloro che, per esempio, la massoneria, l'essenza, il midollo della massoneria è la gnosi. I massoni sono gnostici, professano quella che falsamente si chiama conoscenza. Infatti, quando muoiono, spesso si sente dire loro che appunto il morto è ritornato no? alla casa del Padre, che poi nel linguaggio gnostico sarebbe il pleroma. Vabbè, tutto, perché loro hanno tutto un sistema terribile, terrificante, diabolico. Studiare lo gnosticismo è come studiare le profondità di Satana. Io l'ho studiato e quindi vi posso assicurare che quando si studia la gnosi, lo gnosticismo, si studiano gli gnostici, veramente ci si inoltra in un campo satanico, proprio nel campo del diavolo, dove veramente si incontrano eresie distruttive di ogni genere, principi diabolici di ogni genere, una cosa terribile. Però l'ho dovuto studiare per appunto potervi avvertire e poi anche per confutarlo. Allora, praticamente c'è questo ricongiungimento, quindi, che secondo loro avviene alla morte. Allora, i massoni sono gnostici. Ho messo, diciamo, proprio da poco un video in cui un massone ha dichiarato di professare un credo gnostico. Perché è così. Loro professano quella che appunto viene chiamata gnosi, conoscenza, che è quella appunto che vi ho esposto. Ora, quindi il segreto massonico, dato che appunto ho accennato alla massoneria, vi accenno anche questo. Il cosiddetto segreto massonico, sul quale i massoni fanno battute, no? Generalmente la battuta più, diciamo, più in voga è quella. Il segreto massonico è quello che non c'è alcun segreto. No, il segreto c'è. I massoni lo conoscono, i massoni di alto grado lo conoscono. Sostanzialmente la massoneria è una via iniziatica che si propone di far giungere l'iniziato alla gnosi, cioè alla conoscenza di essere Dio, o meglio, di essere parte di quell'essere supremo superiore a Yahweh. E loro, i massoni, lo chiamano questo essere supremo, grande architetto dell'universo. E dietro questo grande architetto dell'universo, il cosiddetto Gadu, grande architetto dell'universo, alla cui gloria tutto fanno i massoni, si nasconde Satana. Capite? Satana. Infatti i massoni sono figli e servi di Satana. Il loro grande architetto dell'universo non è altro che Satana, il diavolo, il principe di questo mondo. E loro praticamente, percorrendo questa via iniziatica, sostanzialmente arrivano già sulla terra a sentirsi uno con Satana. Lo so. Vedete, è un po' come per i cristiani, no? Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? Che dice così: chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Ora, i massoni hanno questa idea, che sostanzialmente questa loro l'agnosi li porta ad un'unione, diciamo, spirituale con Satana. Ci sarà una ragione per cui non abbiamo comunione con i massoni. Perché il dio della massoneria è Satana. Però usano il termine Dio, vedete? Però bisogna sempre indagare per sapere quale Dio costoro dicono appunto di credere. Perché loro ti dicono: ah, ma io non sono ateo. Sì, voi incontrate massoni che vi dicono: ma io credo in Dio. In quale Dio però? Certamente non nell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma in un altro Dio, nel Dio di questo secolo, che è Satana. Quindi, comprendete dunque la pericolosità dell'agnosi e degli gnostici? Cioè, l'agnosi e gli gnostici, naturalmente, sono acerrimi nemici dell'Evangelo. Perché sono acerrimi nemici della salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Perché per gli gnostici Cristo non è morto per i nostri peccati e non è nemmeno risuscitato dai morti, capite? Perché Gesù non è venuto per loro a salvare i peccatori dal peccato, no, ma quando mai? È venuto a salvare l'uomo dall'ignoranza, capite? Cioè, sostanzialmente, per i massoni e per gli gnostici, Gesù sarebbe venuto a salvare gli uomini impartendo loro una conoscenza segreta, la conoscenza del sé, capite? Che poi è l'agnosi, quindi conoscenza di Dio. Quindi, essendo che il Gesù della massoneria è venuto a portare questa salvezza, è evidente che il Gesù della massoneria non ha niente a che fare con il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, che è il Cristo, il quale è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Non c'è niente a che fare, perché il Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Salvarli da che cosa? Salvarli dal peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Nella massoneria e nello gnosticismo questo concetto non esiste, anzi è fortemente contrastato. Considerate che gli gnostici si ritengono i veri cristiani, anche questo bisogna. A noi sono praticamente, loro si ritengono i veri discepoli di Gesù, quelli che hanno compreso veramente il messaggio di Gesù. Perché? Perché loro praticamente sono pervenuti alla conoscenza esoterica, cioè la conoscenza nascosta. Invece noi abbiamo una conoscenza superficiale, esterna, esterna, esteriore. Noi, secondo loro, non abbiamo la conoscenza segreta. Ce l'hanno loro la conoscenza segreta, capite? Noi abbiamo una conoscenza così superficiale, ma una conoscenza che in fin dei conti non conta niente per loro. Ecco perché da qui il disprezzo degli gnostici verso di noi, discepoli di Gesù Cristo. E anche naturalmente la loro lotta contro di noi, perché loro non sopportano che noi predichiamo la buona novella, che Gesù è il Cristo, cioè loro non sopportano l'Evangelo. E questo spiega appunto l'assenza dell'Evangelo da molti pulpiti, perché dietro molti pulpiti ci sono gnostici. Gnostici ci sono pastori gnostici! Non solo nelle chiese protestanti, ma anche nelle chiese pentecostali. Ormai il pensiero gnostico si è diffuso dappertutto, perché i massoni si sono diffusi dappertutto. E dunque è di fondamentale importanza mettere alla prova gli spiriti, perché non tutti gli spiriti sono da Dio. Allora, siccome che nelle chiese si sono infiltrati gli gnostici che professano quella che falsamente si chiama conoscenza, e questi si camuffano bene, sappiatelo questo, si camuffano bene, però, sapete, alla fine poi vengono scoperti. Vengono scoperti. D'altronde, quando Giovanni dice, sono usciti di fra noi, lo dice così, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Si riferisce ai gnostici, che sono in mezzo alle chiese, poi però quando vengono scoperti vengono cacciati via. Capito? Perché non sono dei nostri. Non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Loro detestano chi annuncia l'Evangelo, come per esempio il sottoscritto. Io non sono il solo che annuncia l'Evangelo sulla faccia della terra, lo dico perché, sapete, ci sono di quelli che mi attribuiscono frasi tipo che Giacinto dice di essere l'unico che predica l'Evangelo. No, no, no, grazie a Dio non sono l'unico che predica l'Evangelo, che è proprio una brutta notizia per gli gnostici, non sono l'unico, ce ne sono tanti nel mondo, che predicano l'Evangelo di Cristo Gesù. Io sono uno di quelli, io sono uno dei servitori di Dio che sono sulla faccia della terra, e naturalmente mi glorio nel Signore per questo. Allora, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, però erano in mezzo a noi. Però vedete cosa dice Giovanni, non erano i nostri. Perché? Perché negano che Gesù è il Cristo. Infatti, quando poi parli con loro, ti rendi conto che non sono dei nostri. Quando appunto li metti alla prova, si manifestano per quello che sono. Sono degli anticristi. In una maniera o nell'altra negano che Gesù è il Cristo. Perché, diciamo, per negare che Gesù è il Cristo non c'è solo una maniera. Ce ne sono tante. Credo in una mia predicazione di avervelo spiegato, se non ricordo male. Comunque, allora vedete quindi quella che falsamente si chiama conoscenza quanto sia pericolosa per la Chiesa. Qualcuno dirà, ma questi gnostici oggi, allora considerate questo, voglio dirvi alcune poche cose. Allora, i massoni sono gnostici. Poi vabbè, è chiaro che siccome che già nei primi secoli dopo Cristo lo gnosticismo era formato da diverse scuole, è evidente che poi ci sono varie scuole gnostiche, però l'essenza rimane sempre la stessa, il pensiero rimane sempre lo stesso. Allora, i massoni sono gnostici, però ricordatevi questo, che la massoneria non è l'unica organizzazione gnostica, perché ci sono chiese gnostiche. Se fate una ricerca troverete che proprio ci sono chiese gnostiche, con tanto di rituali gnostici, con tanto di appunto sacerdoti e sacerdotesse gnostiche, insomma sono proprio organizzazioni. Poi ricordatevi questo, la società teosofica fondata dalla massona e gnostica Blavatsky è un'organizzazione gnostica. I Rosa Croce, per esempio, quando ho sentito parlare dei Rosa Croce, sono gnostici, una potente organizzazione esoterica, sono gnostici. che vi dirò, ma poi tanti, tanti di questi, per esempio, chi è quel, mi sembra che fosse uno psicologo, Carl Gustav Jung, era un gnostico, sicuramente molti ne hanno sentito parlare. Sì, sì, si chiama, mi sembra, Carl Gustav Jung. Sì, proprio, ha scritto delle cose, proprio, è proprio un gnostico. E poi tanti, tanti, non solo tra i psicologi, tra i psichiatri, ma tra i professori delle scuole di tutti i gradi, sono gnostici, tanti cantanti sono gnostici, tanti attori sono gnostici, tanti film hanno trame gnostiche, portano avanti proprio principi gnostici, in tante canzoni ci sono riferimenti a, diciamo, allo gnosticismo. Ma che vi dirò, il mondo è pregno di questa filosofia gnostica e anche nelle chiese, anche nelle chiese è penetrata, diciamo, è penetrata la filosofia gnostica che si manifesta in diverse maniere. Quindi voi capite che coloro che si mettono a professare l'agnosi, è chiaro che si sviano dalla fede, ma certo, si sviano dalla fede nel figliolo di Dio. Ecco perché l'apostolo Paolo mise in guardia Timoteo, dicendogli di schivare le profane vacuità di parole e le opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza. Notate, le opposizioni, perché gli gnostici si oppongono, e anche violentemente, a coloro che hanno la fede nel Cristo di Dio. Ricordatevelo sempre questo, contrastano fortemente le nostre parole. Parlare con gli gnostici è come parlare col serpente antico, ricordatevelo questo. Sono studi diabolici, pieni di ogni frode, veramente sono terribili. Ma perché sono sotto la potestà di Satana, gli gnostici, e la faccia di Dio è contro di loro, e li riconoscete dal loro odio che hanno verso l'Evangelo e verso coloro che annunciano l'Evangelo, come il sottoscritto. Mi odiano, gli gnostici mi odiano tutti. Non c'è uno gnostico che mi ama. Perché? Perché gli gnostici non sono dei nostri, hanno un altro spirito, hanno lo spirito dell'anticristo. Mentre noi abbiamo lo spirito di Cristo, siamo condotti dallo spirito di Cristo, loro hanno lo spirito dell'anticristo, sono proprio guidati da questo spirito malefico che è nel mondo. Quindi, fratelli del Signore, vi ho voluto mettere in guardia da quella, anche da quella che falsamente si chiama conoscenza, come anche vi ho voluto mettere in guardia dall'amore del denaro, per il vostro bene, per la vostra edificazione, affinché rimaniate saldi nella fede e sani nella fede. Quindi considerate appunto quello che vi ho detto, perché ve l'ho detto veramente perché l'amore di Cristo mi costringe a dirvi queste cose, perché veramente fino a che veramente abiterò in questa tenda, veramente voglio cercare il vostro bene, anche mettendovi in guardia dalle macchinazioni di Satana. E sicuramente l'amore per il denaro e l'agnosi sono due macchinazioni di Satana, di cui naturalmente ci sono quelli che sono rimasti vittime. Per quanto mi riguarda, io vi metto in guardia, perché è giusto nel cospetto di Dio che io faccia questo. Quindi state saldi nella fede, siate contenti delle cose che avete, non amate il denaro, il Signore è con noi, non ci lascia e non ci abbandona. E schivate naturalmente le opposizioni degli gnostici, le opposizioni di quelli che appunto si sentono detentori dell'agnosi, di questa conoscenza segreta che li sta menando in perdizione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.